Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Certe volte dalla cucina Aureliano vedeva José Arcadio che gironzolava per la casa strozzato nel suo ansimare affannoso e continuava ad ascoltare i suoi passi per le stanze in rovina dopo mezzanotte. Non udì la sua voce per parecchi mesi, non solo perché José Arcadio non gli rivolgeva la parola, ma perché lui non desiderava che ciò succedesse, né aveva tempo di pensare ad altro che non fossero le pergamene. Alla morte di Fernanda aveva preso il penultimo pesciolino ed era andato nella libreria del Savio Catalano in cerca dei libri di cui aveva bisogno. Non gli interessò nulla di quello che vide sul percorso, forse perché mancava di ricordi per fare un confronto, e le strade deserte e le case desolate erano uguali a come le aveva immaginate in un tempo in cui avrebbe dato l'anima per conoscerle. Aveva concesso a se stesso il permesso che gli aveva rifiutato Fernanda, e solo per una volta, con un obiettivo unico e per il minimo tempo indispensabile. E così percorse senza soste gli 11 isolati che separavano la casa dalla viuzza dove prima si interpretavano i sogni ed entrò ansimando nel multicolore e oscuro locale dove c'era a malapena spazio per muoversi. Più che una libreria, quella sembrava un mondezzaio di libri usati, collocati in disordine negli scaffali intaccati dal tarlo, negli angoli melassati di ragnatele e anche negli spazi che dovevano essere destinati alle corsie. Su un lungo tavolo, pure oppresso da scartafacci, il proprietario scriveva una prosa instancabile, con una calligrafia violacea, un po' delirante, e su fogli sciolti di quaderno scolastico. Aveva una bella capigliatura d'argento che gli sporgeva sulla fronte come il pennacchio di un cacatua, e i suoi occhi azzurri, vivaci e piccoli, rivelavano la mansuetudine dell'uomo che ha letto tutti i libri. Era in mutande, inzuppato di sudore, e non tralasciò la scrittura per vedere chi era arrivato. Aureliano non ebbe difficoltà a recuperare in mezzo a quel disordine da favola i 5 libri che cercava, perché erano nel luogo esatto che gli aveva indicato Melchiades. Senza dire una parola, li consegnò, insieme al pesciolino d'oro, al Savio Catalano, e questi li esaminò, e le sue palpebre si contrassero come 2 arselle. «Devi essere pazzo», disse nella sua lingua alzando le spalle e restituì ad Aureliano i 5 libri e il pesciolino. «Portateli via», disse in spagnolo. «L'ultimo uomo che ha letto quei libri deve essere stato Isaac il cieco. E dunque pensa bene a quello che fai». José Arcadio restaurò la stanza da letto di Meme, fece rammendare e pulire le tende di velluto e il damasco del baldacchino del letto vicereale e mise di nuovo in funzione il bagno abbandonato, la cui cisterna di cemento era annerita da una scoria fibrosa e aspra. A questi 2 luoghi si ridusse il suo impero di paccottiglia, di consunti generi esotici, di profumi falsi e di pietreria a buon mercato. L'unica cosa che sembrò turbarlo nel resto della casa furono i santi dell'altare domestico, che un pomeriggio bruciò fino a ridurli in cenere, in un falò che accese nel patio. Dormiva fino a dopo le 11, andava nel bagno con una sfilacciata tunica a draghi dorati e delle babbucce con nappine gialle e lì ufficiava un rito che per la sua parsimonia e durata ricordava quello di Remedios la Bella. Prima di fare il bagno, aromatizzava la cisterna con sali che portava con sé in 3 bocce alabastrate. Non si faceva abluzioni con la zucca, ma si tuffava nelle acque fragranti e rimaneva perfino 2 ore a galleggiare supino, assopito dal fresco e dal ricordo di Amaranta. Pochi giorni dopo il suo arrivo sostituì il vestito di taffetà, che oltre a essere troppo caldo per il villaggio era l'unico che aveva, per dei pantaloni attillati, molto simili a quelli che usava Pietro Crespi durante le lezioni di ballo, e una camicia di seta cruda con le sue iniziali ricamate sul cuore. 2 volte alla settimana lavava tutto il suo abbigliamento nella cisterna e restava con la tunica finché si asciugava, perché non aveva altro da indossare. Non mangiava mai in casa. usciva in strada quando diminuiva il caldo della siesta e non tornava fino a notte fonda. Allora continuava il suo girovagare angoscioso, respirando come un gatto e pensando ad Amaranta. Lei e lo sguardo spaventoso dei santi nell'alone della lampada notturna erano i due ricordi che conservava della casa. Molte volte nell'allucinante agosto romano aveva aperto gli occhi a mezzo il sonno e aveva visto Amaranta sorgere da un bacino di marmo broccatello con le sue sottane di pizzo e la sua benda sulla mano, idealizzata dall'ansia dell'esilio. Al contrario di Aureliano José, che aveva cercato di soffocare quella immagine nel pantano sanguinoso della guerra, lui cercava di mantenerla viva in una fangaia di concupiscenza mentre teneva a bada sua madre con la panzana senza fine della vocazione pontificale. Né a lui né a Fernanda era mai venuto in mente che la loro corrispondenza fosse uno scambio di fantasie. José Arcadio, che aveva lasciato il seminario non appena era arrivato a Roma, continuò ad alimentare la leggenda della teologia e del diritto canonico per non compromettere l'eredità favolosa della quale gli parlavano le lettere deliranti di sua madre e che l'avrebbe tolto dalla miseria e dalla sordidezza che divideva con due amici in un abbaino di Trastevere. Quando ricevette l'ultima lettera di Fernanda, dettata dal presentimento della morte imminente, mise in una valigia gli ultimi rimasugli del suo falso splendore e attraversò l'oceano in una stiva dove gli emigranti si ammucchiavano come mandrie da macello, mangiando maccheroni freddi e formaggio verminoso. Prima di leggere il testamento di Fernanda, che non era altro che una minuziosa e tardiva ricapitolazione di infortuni, i mobili sgangherati e l'erbaccia del portico gli avevano dimostrato che era caduto in una trappola dalla quale non sarebbe più uscito, per sempre esiliato dalla luce di diamante e dall'aria immemorabile della primavera romana. Nelle insonnie spossanti dell'asma, misurava e tornava a misurare la profondità della sua sventura, mentre ripassava la casa tenebrosa dove le agitazioni senili di Ursula gli avevano infuso la paura del mondo. Per essere sicura di non perderlo nelle tenebre, lei gli aveva assegnato un angolo della stanza da letto, l'unico dove poteva essere al riparo dai morti che vagavano per la casa fin dal crepuscolo. «Qualunque cosa cattiva tu faccia», gli diceva Ursula, «me la diranno i santi». Le notti pavide della sua infanzia si ridussero a quell'angolo, dove rimaneva immobile fino all'ora di coricarsi, sudando di paura su uno sgabello sotto lo sguardo vigile e glaciale dei santi spioni. Era una tortura inutile, perché già fin da quell'epoca aveva paura di tutto quello che lo circondava ed era pronto a spaventarsi di tutto quello che avrebbe trovato nella vita: le donne di strada che guastavano il sangue, le donne di casa che partorivano figli con coda di maiale, i galli da combattimento che provocavano morte di uomini e rimorsi di coscienza per il resto della vita, le armi da fuoco che bastava toccare perché condannassero a 20 anni di guerra, le imprese scombinate che portavano solo alla delusione, alla pazzia, e tutto, alla fine, tutto quello che Dio aveva creato con la sua infinita bontà e che il diavolo aveva pervertito. Quando si svegliava, illividito dalla macina degli incubi, lo splendore della finestra e le carezze di Amaranta nella cisterna e il godimento con cui lei lo incipriava tra le gambe con un batuffolo di seta lo liberavano dal terrore. Perfino Ursula era diversa sotto la luce radiante del giardino, perché lì non gli parlava di cose spaventose, ma gli strofinava i denti con polvere di carbone perché avesse il sorriso splendente di un papa, e gli tagliava e gli puliva le unghie affinché i pellegrini che fossero arrivati a Roma da tutto l'ambito della terra si meravigliassero della bellezza delle mani del papa quando avesse impartito la benedizione, e lo pettinava come un papa e lo inzuppava di acqua di lavanda perché il suo corpo e i suoi vestiti avessero la fragranza di un papa. Nel cortile di Castel Gandolfo lui aveva visto il papa su un balcone mentre pronunciava lo stesso discorso in 7 lingue per una folla di pellegrini, e l'unica cosa che in effetti gli aveva richiamato l'attenzione era il candore delle sue mani, che sembravano macerate nella lisciva, il bagliore accecante delle sue vesti estive e il suo ricondito alito di acqua di lavanda. Quasi un anno dopo il suo ritorno a casa, dopo aver venduto per mangiare i candelabri d'argento e il pitale araldico che nell'ora della verità aveva di oro soltanto le incrostazioni dello stemma, l'unica distrazione di José Arcadio era quella di raccogliere bambini nel villaggio per portarseli a giocare in casa. Compariva con loro nell'ora della siesta e li faceva saltare alla corda nel giardino, cantare nel portico e ruzzare tra i mobili della sala, mentre lui girava tra i gruppi impartendo lezioni di buon comportamento. In quell'epoca aveva smesso i pantaloni attillati e la camicia di seta e usava della roba ordinaria, comprata nei magazzini degli arabi, ma continuava a conservare la sua dignità languida e i suoi atteggiamenti papali. I bambini si presero la casa come lo avevano fatto in passato le compagne di Meme. Fino a notte fonda si sentivano cicalare e cantare e ballare il sapateado, di modo che la casa sembrava un collegio senza disciplina. Aureliano non si preoccupò dell'invasione finché non vennero a infastidirlo nella stanza di Melchiades. Un mattino, due bambini spinsero la porta e si spaventarono alla vista dell'uomo lurido e peloso che continuava a decifrare le pergamene sul tavolo di lavoro. Non osarono entrare, ma continuarono a girare intorno alla stanza. Si affacciavano bisbigliando alle fessure, gettavano bestie vive nei lucernari e una volta inchiodarono dal di fuori la porta e la finestra e Aureliano ci mise mezza giornata per forzarle. Entusiasmati dall'impunità delle loro monellerie, quattro bambini entrarono un'altra mattina nella stanza mentre Aureliano era in cucina, disposti a distruggere le pergamene. Ma non appena si impossessarono delle carte giallognole, una forza angelica li sollevò da terra e li mantenne sospesi in aria finché tornò Aureliano e gli strappò di mano le pergamene. Da allora non lo infastidirono più. I quattro bambini più grandi, che portavano pantaloni corti malgrado si affacciassero già all'adolescenza, si occupavano dell'aspetto personale di José Arcadio. Arrivavano più presto degli altri e dedicavano la mattinata a raderlo, a fargli massaggi con asciugamani caldi, a tagliargli e a pulirgli le unghie delle mani e dei piedi, a profumarlo con acqua di lavanda. Parecchie volte entrarono nella cisterna per insaponarlo dalla testa ai piedi, mentre lui galleggiava supino pensando ad Amaranta. Poi lo asciugavano, gli incipriavano il corpo e lo vestivano. Uno dei bambini, che aveva i capelli biondi e crespi e gli occhi di vetro rosa come i conigli, usava dormire in casa. Erano così solidi i vincoli che lo univano a José Arcadio che lo accompagnava nelle sue insonnie di asmatico, senza parlare, gironzolando con lui nella casa avvolta nelle tenebre. Una notte videro nella alcova dove dormiva Ursula un chiarore giallo attraverso il cemento cristallizzato, come se un sole sotterraneo avesse trasformato in vetrata il suolo della stanza da letto. Non ebbero bisogno di accendere la lampada, bastò alzare le lastre rotte dell'angolo dove era sempre stato il letto di Ursula e dove il bagliore era più intenso per trovare la cripta segreta che Aureliano II si era stancato di cercare nel delirio degli scavi. Lì c'erano i tre sacchi di tela chiusi con fili di rame e dentro i 7214 dobloni da quattro doppie che continuavano a balenare come brace nell'oscurità. Il ritrovamento del tesoro fu come una deflagrazione. Invece di tornare a Roma con la intempestiva fortuna che era il sogno maturato nella miseria, José Arcadio trasformò la casa in un paradiso decadente. Sostituì le tende con altre di velluto nuovo, fece cambiare il baldacchino del letto e ricoprire di piastrelle il pavimento e le pareti del bagno. La credenza della sala da pranzo si riempì di frutta candita, di prosciutti e di sottaceti, e il granaio in disuso tornò ad aprirsi per immagazzinare vini e liquori che lo stesso José Arcadio ritirava nella stazione in casse col suo nome. Una notte, lui e i quattro bambini più grandi fecero una festa che si prolungò fino allo spuntare del giorno. Alle 6 del mattino uscirono nudi dalla stanza da letto, vuotarono la cisterna e la riempirono di champagne. Si tuffarono tutti insieme e nuotarono come uccelli in volo in un cielo dorato di bollicine fragranti, mentre José Arcadio galleggiava supino al margine della festa, rievocando Amaranta a occhi aperti. Rimase così, assorto, rimuginando l'amarezza dei suoi piaceri equivoci, fin dopo che i bambini si erano stancati e se n'erano andati nella stanza da letto, dove strapparono le tende di velluto per asciugarsi e fecero a pezzi nel disordine lo specchio di cristallo di rocca e rovinarono il baldacchino del letto cercando di coricarsi in tumulto. Quando José Arcadio tornò dal bagno, li trovò che dormivano appallottolati, nudi, in un'alcova di naufragio. Infiammato non tanto dalle stragi quanto dalla stomacatura e dalla compassione che provava nei suoi stessi confronti nel desolato vuoto del Saturnale, afferrò una disciplina da scaccino ecclesiastico che conservava in fondo al baule insieme a un cilicio e ad altri ferri di mortificazione e di penitenza e scacciò i bambini dalla casa urlando come un pazzo e sferzandoli senza misericordia come non lo avrebbe fatto per una muta di coyotes. Restò stremato con una crisi di asma che si prolungò per diversi giorni e che gli diede un aspetto di agonizzante. Nella terza notte di tortura, vinto dall'asfissia, andò nella stanza di Aureliano per chiedergli il favore di comprargli in una farmacia vicina delle polveri da inalare. Fu così che Aureliano uscì per la seconda volta in strada. Dovette percorrere soltanto due isolati per arrivare fino alla stretta farmacia dalle polverose vetrine con barattoli di ceramica etichettati in latino, dove una ragazza con l'arcana bellezza di un serpente del Nilo gli fornì il medicamento che José Arcadio gli aveva scritto su un pezzo di carta. La seconda visione del villaggio deserto, appena illuminato dalle lampadine giallastre delle strade, non risvegliò in Aureliano una curiosità maggiore della prima volta. José Arcadio era riuscito già a pensare che fosse scappato quando lo vide riapparire un po' affannato a causa della fretta, trascinando le gambe che la clausura e la mancanza di moto gli avevano reso deboli e intorpidite. Era così sicura la sua indifferenza per il mondo che pochi giorni dopo José Arcadio violò la promessa che aveva fatto a sua madre e lo lasciò in libertà perché uscisse quando ne avesse voglia. «Non ho nulla da fare in strada», gli rispose Aureliano. Si chiuse di nuovo nella stanza, assorto nelle pergamene che a poco andava sviscerando e il cui senso, tuttavia, non riusciva a interpretare. José Arcadio gli portava nella stanza fette di prosciutto, fiori canditi che lasciavano nella bocca un ricordo di sapore primaverile e in un paio di occasioni un bicchiere di buon vino. Non si interessò alle pergamene, che considerava piuttosto un passatempo esoterico, ma fu sorpreso dalla rara saggezza e dall'inesplicabile conoscenza del mondo che aveva quel parente desolato. Seppe allora che era capace di comprendere l'inglese scritto e che tra pergamena e pergamena aveva letto dalla prima all'ultima pagina, come se fosse un romanzo, i 6 volumi dell'enciclopedia. A questo attribuì la ragione per cui Aureliano potesse parlare di Roma come se vi avesse vissuto parecchi anni, ma ben presto si rese conto che possedeva nozioni che non erano enciclopediche, come i prezzi delle cose. «Tutto si sa», fu l'unica risposta che ottenne da Aureliano quando gli chiese come aveva avuto quelle informazioni. Aureliano, da parte sua, si meravigliò che José Arcadio, visto da vicino, fosse così diverso dalla immagine che si era formato di lui quando lo vedeva gironzolare per la casa. Era capace di ridere, di permettersi di tanto in tanto una nostalgia del passato di casa e di preoccuparsi dell'ambiente di miseria nel quale si trovava la stanza di Melchiades. quell'avvicinamento tra due solitari dello stesso sangue era assai lontano dall'amicizia, ma permise a entrambi di sopportare meglio l'insondabile solitudine che al tempo stesso li separava e li univa. José Arcadio poté allora ricorrere ad Aureliano per risolvere certi problemi domestici che lo esasperavano. Aureliano, a sua volta, poteva sedersi a leggere sotto il portico, ricevere le lettere di Amaranta Ursula che continuavano ad arrivare con la puntualità di sempre e servirsi del bagno da dove l'aveva bandito José Arcadio fin dal momento del suo arrivo. Nelle prime ore di una soffocante mattinata si svegliarono allarmati da una serie di colpi incalzanti battuti alla porta di strada. Era un vecchio scuro, con occhi grandi e verdi che davano al suo volto una fosforescenza spettrale e con una croce di cenere sulla fronte. I vestiti a brandelli, le scarpe rotte, la vecchia bisaccia che portava a tracolla come tutto bagaglio gli davano l'aspetto di un mendicante, ma il suo contegno rivelava una dignità che era in decisa contraddizione con la sua apparenza. Bastava vederlo una volta, anche nella penombra della sala, per rendersi conto che la forza segreta che gli permetteva di vivere non era l'istinto di conservazione, ma l'abitudine alla paura. Era Aureliano Amador, l'unico sopravvissuto dei 17 figli del colonnello Aureliano Buendía, che andava cercando una tregua nella sua lunga e rischiosa esistenza di fuggitivo. Si fece riconoscere, supplicò che gli dessero rifugio in quella casa che nelle sue notti di paria aveva evocato come l'ultimo ridotto di sicurezza che gli restava nella vita, ma José Arcadio e Aureliano non se lo ricordavano. Credendo che fosse un vagabondo, lo ributtarono in strada a spintoni. I due videro allora dalla porta la conclusione di un dramma che era cominciato fin da prima che José Arcadio avesse uso di ragione. Due agenti della polizia che avevano braccato Aureliano Amador per anni, che lo avevano inseguito come cani per mezzo mondo, sorsero dai mandorli del marciapiede opposto e gli spedirono due colpi di Mauser che gli penetrarono nettamente nella croce di cenere. In realtà, da quando aveva scacciato i bambini di casa, José Arcadio aspettava notizie di un transatlantico che partisse per Napoli prima di Natale. Lo aveva detto ad Aureliano e aveva perfino fatto dei progetti per lasciargli avviato un traffichetto che gli consentisse di vivere, perché il cestino di viveri non comparve più dopo i funerali di Fernanda. Tuttavia, nemmeno quel sogno finale si sarebbe realizzato. Un mattino di settembre, dopo aver bevuto il caffè con Aureliano nella cucina, José Arcadio stava terminando il suo bagno quotidiano quando irruppero dal tetto i quattro bambini che aveva scacciato di casa. Senza permettergli di difendersi, saltarono vestiti nella cisterna, lo afferrarono per i capelli e gli tennero la testa affondata, finché cessò sulla superficie il bullicare dell'agonia e il silenzioso e pallido corpo di Delfino scivolò in fondo alle acque fragranti. Poi si portarono via i tre sacchi d'oro, il cui nascondiglio conoscevano soltanto loro e la vittima. Fu un'azione così rapida, metodica e brutale, che parve un assalto di militari. Aureliano, chiuso nella sua stanza, non si accorse di nulla. Quel pomeriggio, avendone sentito la mancanza in cucina, cercò José Arcadio per tutta la casa e lo trovò che galleggiava sugli specchi profumati della cisterna, enorme e tumefatto, e col pensiero ancora rivolto ad Amaranta. Soltanto allora comprese quanto aveva cominciato a volergli bene.